che noiosa stai, sempre traendo guai. Senti prendi qui ti riposa e godi in mille vari modi. Non fu più per quest'acque che la mia sete ardente si fiamma maggiormente. Prendigli or dal mondo qui gioir quando o vuoi, qui saziarti puoi. Non ho più saper prove, con quella senza e te, ho preso verso me. Alma d'ogni altra cosa, tu sei più bella e vaga, in te dunque ti appaga. Già tu ti feci stessa e come ti potrei qui l'aria me ti vieni. Lo so che di noi figlia se ritrossa sei tanto starrenci sempre in pianto. Questo vuol, se lo ascolti, pensa dei corpi veri, ma più alti desideri. Temo, perché mi diri, pur voi la poterra, pur segue il voler mio, consiglio a qual di due m'appiglio l'anima mi conforta, il senso mi trasporta, la carne mia mi tenta, l'eterno mi spaventa. Misero, che farteggio, attaccarò mio peggio, non ho che non è giusto, per un fallace gusto, per breve piacer mio. Perder il ciel, la vita eterna, ed io. Sì, cor mai, alma mia, con te coi compagni, cercherò con l'amore il ciel, la vita eterna. Il mio Signore.